Sommando i contributi del druido e del mago, ottenete l'energia totale di ogni attacco. Tuttavia, dovete considerare che lo scudo nemico ne assorbe sempre 3 unità. L'energia che rimane dopo l'assorbimento è quella realmente dannosa. Usatela per calcolare quanti attacchi servono per raggiungere le 50 unità necessarie a sconfiggerlo.